Voci in scena di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola per un nuovo appuntamento con le nostre voci in scena, gli incontri con i grandi protagonisti dello spettacolo. La voce in scena di oggi è quella di un cantautore e medico italiano. È nato a Penne, in provincia di Pescara, nel 1949. Inizia a fare musica negli anni 60, beat rock, poi folk e folk rock. Intanto studia medicina e si laurea nel 1975. Nel frattempo entra nel cast del Folk Studio, il locale in cui hanno mosso i primi passi anche Antonello Venditti e Francesco De Gregori. Nel 1975, proprio per l'etichetta Folk Studio, viene pubblicato il suo primo album, Non rimanere là, cui seguiranno nel corso degli anni altri 15 LP. Collabora spesso con Francesco De Gregori nei tour e negli album Titanic e La Donna Cannone. Nel 1985 partecipa al Festival di Sanremo con la canzone Buona Fortuna. In quell'anno parte in tour con Enrico Ruggeri. Insieme scrivono la canzone Confusi in un playback, da cui prenderanno il titolo sia un album sia un fortunato tour teatrale. Lavora poi con Greg Cohen, collaboratore di Tom Waits. Da lì nascono 4 album. Scrive musiche per il teatro, colonne sonore, continua a pubblicare dischi e fa anche il produttore. E continua a fare il medico. Nel 2016 celebra 40 anni di attività discografica pubblicando il doppio album Piccoli Cambiamenti, con molte delle sue canzoni più note e tanti amici come Francesco De Gregori, Enrico Ruggeri, Andrea Mirò, Alex Britti, Frankie Hi Energy, Ligabue. La nostra voce in scena di oggi è Mimmo Locasciulli. Ho uno zoccolo duro, fortunatamente, non sono un best seller, ma uno zoccolo duro che mi segue, mi puntualizza, insomma, e mi chiedevano, forse poi c'è un tam tam, un passaparola, non lo so, insomma, fatto sta, mi sono trovato con almeno 300-400 richieste di un disco dedicato appunto ai miei fan, non un disco di cose nuove, ma con piccole rielaborazioni, magari pezzi dal vivo, cose così, da personalizzare, da non mettere in commercio e da personalizzare per ognuno che mi avesse fatto richiesta. E allora ho cominciato a riascoltare le registrazioni di cui ho la proprietà, che potevo in qualche modo riutilizzare, anche rielaborare, modificare, eccetera. E mi sono trovato con un repertorio di 60 canzoni più o meno. Questa non la voglio togliere, questa ci voglio provare, questa qui. Insomma, alla fine però ho capito che se avessi fatto questo lavoro per bene, come poi è mia abitudine, avrei speso un sacco di soldi per vendere 1.000-1.500 copie, insomma, allora non valeva più la pena di fare. Nel frattempo mi era stato fatto notare che il mio primo disco era quasi di 40 anni fa, insomma, quindi ecco, perché non fai un compleanno, poi c'è 30 anni di quello, 40 anni di Rimmel, 40 anni di Gloria, no? Insomma, tutti fanno i 40 anni, adesso i Pooh 50 anni, e allora la cosa mi è piaciuta, dico va bene, allora facciamo non soltanto così una riproposta di alcune canzoni, ma la riproponiamo con la partecipazione di amici, conoscenti, parenti e medici curanti, come si dice, per fare una bella festa. Quando fai la festa inviti gli amici, naturalmente. Beh, il medico c'era, eri tu, cosa hai fatto? Hai preso il telefono e appunto hai invitato le persone e tutti ti hanno detto va bene, vengo, sì, alla festa. Tutte le persone che ho invitato, perché poi sono amici con i quali ho ancora uno scambio, una frequentazione di stima, amicizia, e sono tutti artisti con i quali ho fatto già qualcosa, tranne Luciano Ligabue, con cui non ho mai scritto né cantato niente, però forse Ligabue, a parte De Gregori e Ruggeri, è la persona con cui ho avuto più cose da fare, diciamo, come anzianità di tempo. Ecco, nell'86 Ligabue, quindi 30 anni fa, mi venne a trovare un concerto. Lui era veramente, non aveva fatto niente, era uno che cercava di fare dischi, e a me piacquero tantissimo le sue cose, la sua voce, il suo talento, che per un anno ho cercato invano di farlo prendere da casa discografica. Abbiamo fatto dei bellissimi provini di pezzi, peraltro, che sono Sogni di rock and roll, Figlio di un cane, Balliamo sul mondo. Insomma, nonostante il suo talento, nonostante queste canzoni molto belle, nessuno lo ha voluto. Chi per una ragione, chi per un'altra. Insomma, poi alla fine ha detto che okay, Lucia, io ci ho provato. Insomma. Poi fortunatamente per lui Bertoli ha inciso due delle sue canzoni. Il produttore di Bertoli aveva un canale preferenziale con l'unica casa discografica con cui io non avevo rapporti, e da lì fortunatamente è cominciata la luminosissima e bellissima carriera di Luciano. Che però poi alla fine è diventata questo confuso in un playback, che è stata una bella occasione poi allora per chiudere un cerchio. Beh, intanto tutti i miei amici, ma anche lui è un galantuomo, tra l'altro nel suo Liga Channel, che è forse più importante di un telegiornale perché ha 4-5 milioni di followers, ha dato questa notizia, ha raccontato la nostra storia e per chiudere il cerchio ha detto adesso io canto confuso in un playback. Che peraltro io non gli avevo proposto, quando lui ha accettato di partecipare a questo disco gli avevo proposto altre canzoni, ma lui mi ha detto no, Maioli, il mio manager, 30 anni fa mi tartassava le orecchie con questa canzone che la cantava in continuazione, ce l'ho nel cuore e voglio cantare questa canzone, e mi piace questa cosa, mi piace molto. E ognuno lascia il segno nelle persone più sensibili. E il fiume cambia il legno mentre lo trasporta via. Oh, quanti giorni e quante conclusioni e recriminazioni all'insaputa di chi dimentica che un niente in un'anima cosciente provoca i guai. Canzone, visto che ne stiamo parlando, sorprendentemente attuale dopo tutti questi anni. Anche i testi però dei brani spesso sono ancora di oggi. Io ti ringrazio per questo, perché io non sono un professionista del testo, neanche della musica, a dire la verità, sono molto istintivo. Però mi sono attribuito un ruolo, non senza autoreferenziamento, no? Il ruolo per me, io faccio musica intanto perché mi arricchisce lo spirito, ma poi perché quando scrivo un testo cerco di rappresentare la mia risposta emotiva a fatti o a cose che mi girano attorno. Non descrivo, non sono un uomo di cronaca, sono un uomo che nella realtà, nella quotidianità, prende questi input per trasformarli in sensazioni. E su cui poi in canzone ci metto una poetica. Però è vero, se io testimonio il tempo che vivo, e oggi, che so, se parliamo, dico, del sequestro Moro, insomma è ancora una cosa molto attuale, no? Sono passati quasi 30 anni, se parliamo dello sbarco sulla Luna non ci sembra una cosa, Napoleone ci sembra molto lontano, voglio dire, no? Cose che sono accadute, che segnano in qualche modo la nostra, il segnatempo del nostro vivere, è tutto attuale, no? E quindi io credo che mi abbia fatto un grande complimento tu. I musicisti sono così, è uno dei brani che hai ripreso, racconta un po' la vita del musicista. È una vita che ti appartiene, nonostante tu nella tua vita sia anche tante altre cose? È un'altra bellissima domanda, che fa? Mi leggi dentro? Io ho fatto milioni di chilometri, centinaia e centinaia di concerti, e ho frequentato i musicisti con cui ho sempre avuto un rapporto di amicizia. Qui la parola musicista è un po' più vasta, diciamo, l'interpretazione della parola musicista è chi gira, anche magari gli attori, anche gente del circo. In effetti io vivo una vita stanziale, cioè ho una famiglia, una casa, ho un lavoro che mi impegna quotidianamente. Però la mia indole o la mia anima è migratoria, quindi io sono così, un nomade nel cuore che però vive sempre nello stesso posto. E ognuno col suo carico fino a dove può, con il suo carro di sogni trascinato da illusioni, e non risponde di più di quel che sa, o forse non comprende se c'è odio o vanità. E ognuno dai suoi sogni poi si sveglierà al tempo in cui le cose già sono scritte altrove, nei posti senza luoghi, in un acquario di parole. E allora sarà tardi per andare via da qua, via da qua. Forse è tardi già, non c'è più tempo ormai. Ti ha consentito di essere più libero nelle tue scelte musicali, però ti ha anche costretto a un rapporto particolare con la discografia, non sempre facile. No, io non voglio dire di essere stato il salmone che risale la corrente al contrario, però è chiaro, ho avuto delle difficoltà come medico, nonostante tutto sono riuscito a concludere la mia carriera dirigendo un reparto di grande prestigio. Poi alla fine, insomma, le cose possono convivere, ho trovato una mediazione, nel senso che in ospedale non ho mai firmato un autografo, ho evitato sempre di parlare di musica, e nel mondo della canzone, mondo di cui io mi reputo un po' un ospite esterno, ecco, non sono a pieno titolo, sono un dilettante, mi piace la parola dilettante, parlando con Mario Luzzato Fegiz mi ha dato una frase che mi piace tantissimo, una frase di Carmelo Bene che diceva: io sono un dilettante e come tale il più grande dei professionisti. Eppure hai avuto anche momenti di enorme popolarità al Festival di Sanremo, insomma, ma per te cosa è successo dopo tutta questa carriera? Beh, l'ho scritto anche nelle note del mio disco. Il successo è un caleidoscopio di immagini. È essere primi in classifica, è essere riconosciuto ai semafori, essere importunato quando si è al ristorante, è essere applaudito, essere inseguito. Io mi ricordo da ragazzo, i primi dischi a Pescara, fui inseguito da una torma di ragazzine che volevano tagliarmi i capelli quando ancora per dire, insomma, quello non è il successo, ma quello è un po'. Alla fine il vero successo è che tu, dopo tutti questi anni, riesci ancora a toccare con mano l'affetto di chi ti segue, dei colleghi, degli amici, e capisci veramente che sono passati tanti anni e hai conservato un patrimonio. Quello è il vero successo. È ancora in sintonia con i tempi questo modo di vedere? Quando vedi i ragazzi che adesso cercano di avere successo, cosa pensi? No, io un po' sono intristito da questa, diciamo, la musica è diventata un'altra cosa, usa e getta, e questo mi dispiace molto. Anche mi pongo il problema quando faccio dei dischi, perché sono dischi anche costosi, musicisti di prestigio, studi di regia, insomma, metto cura nei suoni, negli arrangiamenti, e poi capisco che la maggior parte delle persone ascolta la musica con le cuffiette sulla metropolitana o sul tram, insomma, questo mi deprime un po', e mi deprime anche sapere che c'è tanta gente che pone speranza forte nella sua vita appoggiandosi alla musica, e questi sogni magari vengono infranti in 3 mesi di talent. Chi vince può avere un successo effimero, un successo duraturo, dipende anche da tante circostanze, ma il mio pensiero va veramente a chi brucia in 3 mesi, perché sono bruciati, non hanno una seconda chance. Quando c'era, diciamo, la strada in salita per diventare un artista, le cantine, i provini, i locali in continuazione, gli insuccessi, il no, tutti tempravi, avevi anche un'altra resistenza di fronte anche all'insuccesso. Piccoli cambiamenti, potevo partire da piccoli cambiamenti o potevo arrivare a piccoli cambiamenti? Piccoli cambiamenti sono quelli che hai fatto le canzoni, ma 40 anni di carriera nel mondo, in te stesso, nella musica, non piccoli cambiamenti. Sembra quasi ironico, piccoli cambiamenti in più questo caso. Intanto sono piccoli cambiamenti che io ho apportato nelle mie canzoni, non volevo stravolgerle. E anche se qualche tentazione ce l'ho avuta, mi ricordo quando ho fatto la tournée con Gigliola Cinquetti in Giappone, c'erano delle canzoni che a sentirle così erano, come devo dire, risultavano troppo, vabbè, non aggiungo un aggettivo banale, ma insomma, tipo la domenica andando alla messa, ecco, l'arrangiamento che abbiamo fatto di Greg Cohen con la tournée sembrava una canzone di Tom Waits. È bellissimo, voglio dire. Quindi qualche tentazione ce l'ho anche avuta, però no, volevo, alla fine dei conti, volevo soltanto riattualizzare un pochettino queste canzoni. E c'è la canzone di ingresso, che è l'unico inedito in effetti, che poi è la dichiarazione programmatica di tutto il disco. I piccoli cambiamenti sono in queste mie canzoni, ma anche nella musica in generale sono stati cambiamenti enormi. Ecco, siamo passati dai Beatles a Bob Dylan, a Woodstock, che so, a Tom Waits, a Springsteen, ai talent, alla musica così di consumo. Adesso finalmente, fortunatamente, c'è qualcuno che si reinteressa al vinile. Ecco, a settembre uscirà anche il mio vinile di questo disco. E poi cambiamenti nel mondo, sono cambiamenti che in altre epoche sarebbero avvenuti in decine e decine e decine e decine di anni. Oggi va tutto più veloce, la comunicazione, la tecnologia, la morale, l'educazione, la cultura, insomma questi sono dei cambiamenti enormi, non sono piccoli cambiamenti. Ed è tutto per l'appuntamento di oggi con Voci in Scena. Con noi c'era Mimmo Locasciulli. Ancora un saluto da Marta Cagnola.